lascia lente le briglie del tuo ipogrifo o astolfo, e sfrena il tuo volo dove più ferve l'opera dell'uomo. Però non ingannarmi con false immagini, ma lascia che io veda la verità e possa poi toccare il giusto. appeso al cielo, sugli occhi c'è il sole nel petto. Ciò che è solo in Thank you. pietà della mia mente che se ne va. Il giorno aspetterà, per me si fermerà un po' di più. Spazi dove